Tuo figlio è chiassoso e disordinato? Fa il bulletto a scuola per andare su YouTube? Ogni volta che gli chiedi di fare qualcosa ti ignora mandandoti a cagare? Forse è l'ora che tu gli dia Manehe! Manehe è una soluzione innovativa per tutti i problemi legati all'irrequietezza dell'adolescenza. Preso prima o dopo o prima e dopo i pasti, Manehe ti porterà la gioia in famiglia, liberandovi finalmente da quel senso di frustrazione che da anni vi attanaglia. Dare Manehe è facile e veloce, è economico, non richiede particolari doti fisiche e in più è una risorsa virtualmente inesauribile, a meno che non siate dei distrattissimi addetti alla sega circolare. La particolarità di Manehe è che si può accoppiare con gli altri prodotti della nostra linea come gnocchini, lattoni o le nuovissime carcagnè. Il tuo ragazzo ha 5 in condotta? Dagli un paio di Manehe. Non mette in ordine la sua stanza? Convincilo a sonni Manehe e gnocchini. Ha messo incinta la sua fidanzatina minorenne? Sbizzarrisciti prendendolo a lattoni, manahe, nocchini e carcagnahe, creando ogni volta nuove spettacolari combinazioni. Ma tu hai dato il telefono? Dov'è il cazzo? Aia! Quindi cosa aspetti? Comincia fin da ora a distribuire manahe e la vita tornerà a sorriderti. Attenzione! Dare manahe con troppo vigore può avere controindicazioni quali ematomi, ecchimosi, gonfiori delle labbra, denunce per maltrattamento agli organi competenti. Non utilizzare manahe come sveglia. Se il sintomo persiste, procurarsi un tirapugni.